Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Festeggiamo l'Oliva, tornato qui per amor nostro e per fortunate incroci arteriali, parlando di risorse aggiuntive, di contesse scalze, di che cosa ha veramente scritto poi Platone e di spiegazioni difficili.